Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica. Vi dice niente il nome Officine Ortopediche Rizzoli? Io penso che più o meno a tutti quelli che seguono un po' la storia, anche un minimo, sia un nome che dice qualcosa, perché è un nome storico di Bologna per le protesi esterne, un nome diventato famoso durante le guerre, perché poi quelle purtroppo producevano molti mutilati, e comunque Officine Ortopediche Rizzoli è un nome storico della manifattura italiana. È stata fondata nel 1890 grazie all'eredità del cavalier Francesco Rizzoli di Bologna, che non aveva niente a che fare se non l'omonimia con Angelo Rizzoli, editore della Rizzoli, e è stata una gloria del Made in Italy fino agli ultimi 20 anni, nei quali ha cambiato proprietà per ben 3 volte, prima Gazzoni Frascara, poi la PRL e poi la seconda Investimenti, che è stata l'ultimo proprietario, arrivando al fallimento nel 2015. Sembrava che fosse un marchio destinato a morire, però è stato comprato da una holding che si occupa di automazione, cose moderne nell'ambito della sanità, la AB Medica, che è della famiglia Cerruti, che ha nominato amministratore delegato Alessandro Maggi, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'attenzione. E loro hanno detto, dopo il fallimento, vogliamo far rinascere le Officine Ortopediche Rizzoli con un progetto che è molto 4.0, perché si basa sull'unione di prodotti e anche di servizi. Oggi questo fine settimana è un fine settimana dedicato a grandi marchi della manifattura Made in Italy che rinascono, tentano di rinascere. Ieri abbiamo parlato delle acciaierie di Terni, che sono giunte all'utile, e oggi parliamo delle Officine Ortopediche Rizzoli. Allora, ci dica Maggi, voi volete addirittura passare da 10 a 30 milioni di euro e arrivare all'utile netto. Per un'azienda fallita, che poi è stata anche in crisi, è vast programma, direbbe De Gaulle. Sì, il programma è particolarmente ambizioso e il piano industriale è particolarmente serrato. Indubbiamente dobbiamo arrivare a quelle cifre, perché comunque è indubbio che la nostra azienda ha il potenziale e i contenuti tecnologici per esprimersi a questo livello, specie in un settore che è particolarmente frammentato e è popolato da aziende medio-medio-piccole che difficilmente superano i 5-6 occupati. Mm-hmm. In questo ambito crediamo di poter fare la differenza. E voi fate protesi esterne, ovvero? Allora, noi ci occupiamo di quella che è la tecnica ortopedica, ovvero quello che aiuta una persona amputata a camminare, pertanto una protesi che sostituisce l'arto mancante. Mm-hmm. Ci occupiamo di ortesi, ovvero sempre presidi fatti su misura che permettono di modificare, supportare, correggere un arto non performante. Mm-hmm. E ci occupiamo di tutorizzazione di tronco, che sono i classici corsetti per la scoliosi, tutto quello che è la deformità della spina dorsale, sia in età evolutiva sia nella età involutiva, il grande anziano, i crolli vertebrali e quant'altro. A corredo di questo c'è anche un'ampiezza di catalogo, però il nostro core business è questo. Va bene, poi nella seconda parte della trasmissione ci racconterà come questo poi viene unito a una componente di servizio e a una componente 4.0. Intanto, avvisi sul traffico e varie ed eventuali. Restate assolutamente con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi parliamo di un marchio storico della manifattura Made in Italy, ovvero le Officine ortopediche Rizzoli, officine ortopediche che erano una gloria, poi sono andate via via calando fino ad arrivare al fallimento e poi sono state comprate dal fallimento dalla AB Medica. Il nostro ospite Alessandro Maggi, e stavamo dicendo con lui nella prima parte della trasmissione che non sarà più solo la produzione di protesi nel senso di arti o corsetti o piede protesico per chi purtroppo l'ha dovuto tagliare simili, ma nel piano di sviluppo per tornare alla redditività e tornare a essere un'azienda sana c'è anche una forte componente di servizio, anche una componente 4.0. Ce la spiega? Rizzoli si candida a essere partner delle strutture riabilitative, facilitando e supportando il percorso alla ripresa della migliore autonomia possibile da parte del paziente. Pertanto noi abbiamo costruito e creeremo sempre di più un catalogo di prodotti e servizi che vanno da strumenti riabilitativi professionali che possono essere installati nei reparti ospedalieri, che permettono di misurare il percorso riabilitativo tramite la robotica e la tecnologia, e il medesimo percorso prosegue a domicilio del paziente, anticipando pertanto il rilascio dall'ospedale in un ambiente molto più confortevole, in un ambiente familiare che favorisce, diciamo, la tranquillità e il risparmio, perché il lato alberghiero dell'ospedale cessa, pur mantenendo la possibilità di continuare gli esercizi sotto la tutela e il monitoraggio del medico che ha seguito il paziente in ospedale. Senta, ma quindi si tratta di dare una protesi che diventa anche una cosa che permette di monitorare il paziente, perché ci sono dei sensori, ci sono dei sistemi di trasmissione, questo? Sì, grazie al livello tecnologico che Rizzoli ha trovato all'interno del gruppo AB Medica, noi siamo cosa in grado... Cosa fa il gruppo AB Medica? Il gruppo AB Medica è un gruppo leader nella chirurgia robotica e distribuisce il robot tra gli altri. Il più famoso è il robot Da Vinci della Intuitive, che è un'azienda americana, che è lo stato dell'arte della chirurgia robotica e laparoscopica. All'interno di questo ci sono delle aziende del Da gruppo. Da Vinci è un robot della Cuca? No. Il Da Vinci è prodotto da Intuitive. La Cuca è il braccio antropomorfo che noi utilizziamo a Abuja, dove abbiamo la fabbricazione centrale per sì, poi ci arriviamo la produzione a questo industriale. Ecco, e quindi grazie all'integrazione con AB Medica date degli elementi di 4.0, che vuol dire interconnessione e monitoraggio completo del paziente, per cui la protesi non è più solo un protesi, ma diventa la parte tangibile, l'hardware di un servizio continuativo nel tempo. Sì, è un sistema di fatto intelligente che permette di monitorare le condizioni d'uso, il livello di performance, lo stato di salute sia della persona che del presidio. Anche perché quando uno ha bisogno di riabilitazione tante volte esce dal controllo dell'ospedale. Attualmente sì, gran parte del percorso riabilitativo spesso viene continuato, specie quando abbiamo un paziente cronico, a domicilio, ricorrendo al supporto di varie forme come fisioterapista che viene a casa, eccetera, eccetera. E questo però, molto utile, però fa perdere la misurabilità, l'obiettivo e il percorso che il clinico ha indicato per il paziente. Senta, ma perché le officine ortopediche Rizzoli, di cui lei era già un dipendente con le vecchie gestioni prima di diventare poi il numero uno, ecco, perché sono arrivati a fallire? Allora, innanzitutto sicuramente c'è una componente di scelte manageriali non adeguate alla sfida che stavano affrontando, ma principalmente per due punti. Il primo è un ritardo nei tempi di pagamento da parte delle ASL, in cui si arrivava anche ad alcuni anni rispetto al tempo di erogazione del servizio. La seconda è che questa combinazione è avvenuta anche nel momento peggiore possibile, in cui c'è stata una contrazione del credito e pertanto abbiamo avuto una gravissima crisi di liquidità. e questo ha comportato prima l'esperimento di una procedura concorsuale e poi il fallimento vero e proprio. Adesso però continuate a lavorare con le ASL, che non credo siano tutte diventate virtuosi pagatori. No, devo dire che generalmente i tempi di pagamento sono decisamente migliorati, con pochissime eccezioni, ma il quadro è completamente cambiato. Noi continuiamo a lavorare col Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo ampliato però la gamma e il catalogo di prodotti che le persone possono comprare e possono, su cui possono investire la propria salute. E però ecco, il quadro, il contesto è decisamente completamente mutato. Insomma, voi comunque volete anche avere una parte di clienti privati, ma ci vorranno alcuni mesi se non anni perché questa parte più la parte di teleriabilitazione si sviluppi. Adesso immagino che sia una parte minima del fatturato. Ma in questo momento si attesta dal 5 al 10%. Poi un altro vostro programma per arrivare a 30 milioni di euro è l'internazionalizzazione, no? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo costruito un percorso di progetti di ricerca che ci porteranno a offrire nuovi prodotti della tecnica ortopedica suscettibili di essere distribuiti innanzitutto sul mercato europeo. Si parla di ortesi di nuova generazione, si parla di strumenti a controllo robotico per la riabilitazione, si parla anche banalmente di plantari su misura di nuova concezione. Questo a partire dal prossimo anno darà un impulso forte alla nostra penetrazione sui mercati esteri. Ok, voi mantenete la produzione a Budrio, che è sempre vicino a Bologna, in provincia di Bologna, dove c'è un distretto delle protesi. Budrio è la capitale italiana della produzione ortopedica, abbiamo sede noi, ha sede l'INAIL a Vigorso, che è una frazione di Budrio, che ha sia l'ospedale riabilitativo che la produzione dedicata ai pazienti, agli assistiti INAIL. Ci sono moltissimi operatori grandi e piccoli e proprio concentrati a Budrio. Questo è molto interessante, insomma, su tutta la sanità in Emilia Romagna ci sono vari distretti, compreso quello del biomedicale, che è un nostro punto di eccellenza nel mondo. La nostra realtà, devo dire che non è molto conosciuta al grande pubblico, anche se l'attenzione nei nostri riguardi sta decisamente cambiando. A proposito, mi dica cosa fate con questo braccio robotico Cuca all'interno dei vostri stabilimenti? Allora, Rizzoli è stata la prima azienda nel 98 a costruire un percorso di produzione che prevede l'utilizzo di strumenti robotici, ed è stata la prima in Italia a avere questo braccio robotico Cuca, che noi chiamiamo Arturo, che ci permette di modellare con una progettazione interna i positivi su cui poi noi andiamo a produrre il manufatto. E perché c'è bisogno di un braccio robotico per modellare questi positivi, che poi sarebbero come degli stampi? Perché l'ortopedia sta affrontando un grandissimo passaggio generazionale e i vecchi artigiani che ora stanno andando in pensione non saranno più disponibili, che hanno sempre lavorato con il gesso. Questo tipo di tecnologia non permette più un'accuratezza che viene richiesta dal settore. Noi lavoriamo con la scansione laser, che è un paradigma tecnologico completamente differente. Pertanto, prendendo le misure in una maniera particolarmente accurata, ci serve anche un braccio e una produzione altrettanto precisa e performante, cosa che la produzione tradizionale non permette più. Comunque chiudere, dottore, ma credo che un'idea gli ascoltatori di quello che sta succedendo alle storiche officine ortopediche se la siano fatte. Mi piace molto questa chiusa sui robot, sul braccio robotico Cuca, che conferma la nostra idea che i robot migliorano la vita, fanno crescere l'economia e creano occupazione. Pertanto, viva le fabbriche, viva i robot, e ci sentiamo sabato prossimo alle ore 14:00.